Massimo Viviani, direttore generale di Feder Distribuzione. Feder Distribuzione appunto rappresenta i grandi centri commerciali, i grandi supermercati. Questo adeguamento a voi proprio non piace. Condividiamo in pieno gli obiettivi ambientali e ben venga la possibilità di sostituire gli shopper. Quello sul quale siamo molto critici è sulla modalità con la quale questo sta avvenendo, perché pensiamo che stiamo parlando di aziende, ad esempio quelle del non food, dove gli shopper già non esistono da tempo, e se si entra nei centri commerciali, nei supermercati, nella maggior parte di questi, già nel passato, già adesso si può trovare la scelta. C'è lo shopper tradizionale, c'è quello in materiale biodegradabile, ma ci sono anche le borse riutilizzabili. Quindi l'attenzione all'ambiente per noi è prioritaria. Quello che non ci va però per nulla bene è come è stato portato avanti questo adeguamento. Innanzitutto, in tutta Europa non ci sono divieti come quello che c'è in Italia. È vero che nel resto d'Europa si usa pochissimo lo shopper, ma questo grazie ad accordi fatti tra la distribuzione, la produzione, i consumatori, le istituzioni per fare campagne di comunicazione nei confronti dei consumatori. La stessa Francia che voleva portare una legge come quella italiana, che portava il divieto secco di vendita degli shopper, l'ha fatta vedere prima alle commissioni europee e la Commissione europea gli ha detto: guarda che questa non è accettabile secondo la normativa europea, te la dovremmo contestare. Sono tornati indietro e hanno fatto un accordo con produzione, distribuzione, associazioni dei consumatori per promuovere gli strumenti, i sacchetti biodegradabili piuttosto che quelli riutilizzabili, con grande successo. In Italia noi siamo diversi, esiste la legge approvata il dicembre del 2006 che diceva che dal 1 gennaio 2010 i sacchetti dovevano essere banditi, ma diceva anche che ci voleva un decreto attuativo nel quale si stabiliva un periodo di test, si stabilivano quali prodotti effettivamente sono oggetti del divieto e quindi c'era un periodo di passaggio morbido che avrebbe consentito anche di creare consapevolezza nei consumatori, di dare valore a questa scelta ambientale.